Vivere a Roma è sempre un problema, soprattutto se ti viene un'idea. Per un giorno di gloria, mille notti di insonnia e nessuno che ti dia una mano. Avere un'idea alle 10 di sera è come essere un pinguino all'equatore. Soprattutto se il tuo amico, il tuo amico del cuore, è partito per il militare. E lui canta, canta e marcia, canta sempre la stessa canzone. Arrivano gli Stukas ragazzi, non vogliamo farti male. Dalla sera alla mattina, dalla sera alla mattina vi faremo ballare. Perché noi siamo grandi farfalle, travestite da squali. Situazione disperata.